Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. Alla di gloria della sua grazia, grazie, che ci ha dato nel suo figlio diletto. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio va abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, perché ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Noi ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta, non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Salga a te, Signore, la mia preghiera. Salga a te, Signore, la mia preghiera. Come profumo d'incenso. La mia preghiera. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salga a te, Signore, la mia preghiera.